Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Benvenuti a Focus Economia per il racconto e il resoconto della giornata economico-finanziaria. La settimana parte di nuovo con un certo nervosismo. Sul fronte delle borse era partita molto meglio la seduta stamattina, con rialzi abbastanza vigorosi per le borse del vecchio continente, che peraltro oggi non hanno neanche spunti da Wall Street, visto che il mercato americano è chiuso per il Memorial Day. E invece nella seconda parte della giornata il quadro è cambiato, resistono per la verità alcune piazze, ma in ogni caso non sono riuscite a mantenere i rialzi superiori al punto percentuale che mettevano a segno questa mattina. Cosa è successo? Ed è tornata di nuovo ad essere alimentata una certa tensione sul fronte spagnolo. Stanno crollando i titoli della banca nazionalizzata dal governo Bankia, meno 28% alla borsa di Madrid, situazione che ha condizionato pesantemente le altre borse europee, ma ha condizionato soprattutto il mercato obbligazionario, perché è ritornato ad esplodere il differenziale di rendimento fra titoli spagnoli e titoli tedeschi sulla scadenza decennale, quindi lo spread fra i bonus e il Bund è ritornato ben al di sopra dei 500 punti base, ma stamattina una certa fibrillazione, anzi per tutta la giornata, c'è stata anche dal nostro versante, perché il differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi, sempre sulla scadenza decennale, lo spread, è ben al di sopra dei 430 punti base. La borsa italiana è negativa, anche il FTSE MIB stamattina guadagnava oltre un punto, ma naturalmente avendo una forte esposizione sul settore bancario in una giornata storta per le banche di tutte Europa, potete ben capire quanto ne risenta Milano, e infatti tutte le banche sono proprio in forte calo. Affronteremo in dettaglio nella prima parte di Focus Economia le novità che sono arrivate oggi dalla Spagna e quindi vedremo appunto quale sarà la prospettiva sul comparto bancario spagnolo, che ha bisogno di essere aiutato. Per banche appunto c'è necessità di altro capitale per qualcosa come 19-20 miliardi di euro, e su questa prospettiva naturalmente il mercato oggi ha risposto, così come vi raccontavo. Poi di che cos'altro parleremo? Di un'altra invece grande operazione finanziaria che riguarda il nostro paese, la conosciamo da qualche giorno, stasera ne approfittiamo per approfondirla perché è anche piuttosto complicata, un'operazione finanziaria ed industriale insieme. Snam Rete Gas viene scorporata da Eni, passa al controllo della Cassa Depositi e Prestiti. Cosa vuol dire tutto questo per il comune mortale? Lo capiremo più tardi. Comunque uno dei provvedimenti di liberalizzazione che da tempo è nell'agenda del governo, lo è stato questo tema anche nell'agenda dei governi passati. Adesso il provvedimento si concretizza perché non si può più rinviare, ma quale sarà il beneficio per il nostro Stato di un'operazione di questo tipo, che per la verità appare anche un semplice passaggio azionario sempre in seno statale, quindi sul mercato non si capisce che cosa finisca, lo capiremo più tardi appunto con i nostri colleghi delle Sole 24 Ore. Poi lo avete sentito anche nel giornale radio. Il commissario Bondi ha presentato il suo rapporto sulla spending review, sui risparmi di spesa pubblica che il governo intende adottare, quantomeno per evitare il prossimo aumento dell'IVA previsto per l'autunno. Chissà se questi 4,2 miliardi di risparmio individuati e le misure appunto previste entro giugno riusciranno a scongiurare questo aumento, che si ripercuoterebbe naturalmente sull'inflazione, sui consumi, sulle scelte di consumo da parte delle famiglie e delle aziende, per cui è davvero una circostanza, se si potesse, da scongiurare, quindi parleremo anche di questo. Questi i principali argomenti che affronteremo. 349-238-6666 se volete commentare con noi i principali argomenti della giornata. Adesso le altre notizie in breve. Allora, come vi dicevo, oggi Wall Street è chiusa per il Memorial Day per quello che riguarda le materie prime, quindi non abbiamo la quotazione d'apertura del petrolio nel pomeriggio. Abbiamo quello che è successo questa mattina sui mercati asiatici con il greggio che è ritornato intorno a quota $91 al barile. Per quello che riguarda invece le quotazioni dell'oro, siamo anche in questo caso in aumento a $1,578 l'oncia. Sentite che cosa è successo. Spagna, Italia e Grecia alle prese con una nuova crisi, quella dell'olio d'oliva. Il prezzo del prodotto simbolo della dieta mediterranea è crollato ai livelli di 10 anni fa. Lo stesso il consumo domestico nei paesi mediterranei fra i maggiori produttori è in calo a causa della crisi economica. La notizia, chi la rileva? Non nella stampa dei paesi interessati, bensì il Financial Times online. Il calo coincide con una abbondante raccolta di olive in Spagna, il maggior produttore, creando un eccesso che ha spinto l'Unione Europea ad intervenire per ridurre questo surplus che mette a rischio i redditi agricoli. Andiamo alla crisi europea. Summit a Downing Street sulla crisi dell'Eurozona. Il primo ministro David Cameron ha chiamato a raccolta oggi il governatore della Banca d'Inghilterra Marvin King, il cancelliere dello scacchiere che corrisponde praticamente al Ministero del Tesoro britannico George Osborne, il presidente dell'autorità di controllo della borsa inglese Lord Turner e il vice primo ministro Nick Clegg e il numero due del Tesoro Danny Alexander. L'agenda dell'incontro non è stata diffusa ai media, ma è probabile che sul tavolo ci sia la messa a punto del piano di emergenza su cui sta lavorando la Bank of England per gestire gli eventuali contraccolpi di un'eventuale uscita dall'euro della Grecia. Utilizzo più volte il termine eventuale sperando che si possa continuare a mantenere questa definizione appunto per i contraccolpi della crisi. Pagate le tasse per il bene dei vostri figli, lo ha mandato a dire ai genitori greci il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, in un'intervista al Guardian in cui precisa che il Fondo Monetario non ha intenzione di addolcire i termini del pacchetto di austerità per Atene. La Lagarde ha detto di avere più simpatia per i bambini privati dell'istruzione nell'Africa subsahariana che per molti greci che rischiano la povertà per la crisi. I genitori greci devono pagare le tasse, ha detto la Lagarde, poi quali siano le sue simpatie non importa, sinceramente una commento di questo tipo che prenda, come dire, come misurazione anche un po' della situazione critica che viviamo in questo momento, la condizione dei bambini non è particolarmente simpatica neanche a noi, signora Lagarde, comunque. Il governo francese ha oggi criticato la visione un po' caricaturale e schematica espressa dal direttore generale del Fondo Monetario Lagarde che, appunto, come vi dicevo, ha invitato i greci a pagare tutte le tasse. A commentare la dichiarazione della Lagarde è stato il portavoce dell'esecutivo francese secondo il quale non è il momento di dare lezioni alla Grecia. E poi, insomma, queste sue dichiarazioni sono naturalmente circolare nella misura massima su tutti i social network, anche su Facebook e in ogni caso anche il capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo, un esponente austriaco, Svoboda, aggiungendosi al coro di critiche per queste esternazioni, le ha definite arroganti e senza sensibilità. Va bene, allora andiamo a quello che è successo oggi in Italia. Il Tesoro ha collocato sul mercato CTZ, certificati del Tesoro zero coupon con scadenza maggio 2014 per complessivi 3,5 miliardi, il massimo ammontare che il Tesoro si era prefissato, con rendimenti che però sono stati in deciso rialzo perché il tasso medio che il Ministero dell'Economia ha dovuto riconoscere è stato del 4,037%. Dal 3,35% del collocamento di aprile. Anche la domanda è scesa leggermente. Allora, il commissario per la spending review, per la riorganizzazione della spesa pubblica, soprattutto per la individuazione di tutti i risparmi possibili da poter fare, Enrico Bondi, ha presentato oggi, lo avete sentito anche in questa con questa parola che nel giornale radio abbiamo diffuso e che è stata sicuramente oggi quella che ha suscitato maggiore curiosità: il cronoprogramma degli interventi al Comitato Interministeriale per la Revisione della Spesa. Questo comitato si è riunito stamattina a Palazzo Chigi. Il commissario Bondi ha detto di avere intenzione di mettere in campo una serie di azioni per realizzare un sistema di acquisto realmente integrato e performante, in grado di ottimizzare il prezzo unitario di acquisto per la pubblica amministrazione. Le cifre: entro il mese di giugno saranno varati tutti gli strumenti operativi per ottenere le riduzioni di spesa programmate, pari ad almeno 4 miliardi e 200 milioni di euro, su un volume di spesa considerata aggredibile di circa 100 miliardi. Già stanno fioccando i vostri commenti su questo: lo stock da aggredire è talmente elevato rispetto alle riduzioni programmate che forse effettivamente qualcosa di più immaginiamo si possa fare, però intanto già partiamo con questi, che è qualcosa. Un'altra considerazione che arriva a proposito delle iniziative per rivedere la spesa pubblica: sono oltre 130.000 le segnalazioni arrivate da cittadini e associazioni al governo per segnalare inefficienze e sprechi e proporre soluzioni per razionalizzare la spesa pubblica. Anche questa cifra è stata divulgata oggi dal governo in una nota pubblicata sul proprio sito. Questa consultazione pubblica peraltro è agli sgoccioli, perché si chiuderà domani e alcune segnalazioni, spiega il governo, hanno motivato un'indagine specifica, in particolare nel caso in cui denunce ricorrenti apparivano provenienti da territori diversi. Altre statistiche macroeconomiche del nostro paese: la fiducia delle imprese e del commercio in maggio risulta ai minimi dal 2003, l'indice destagionalizzato del clima di fiducia segna un calo significativo appunto per il mese di maggio nelle imprese del commercio al dettaglio, passando a 75,4 punti dagli 80,9 della precedente rilevazione. L'Istat ha spiegato che si tratta del valore più basso dall'inizio delle serie storiche, e cioè questa rilevazione è iniziata nel gennaio del 2003. In calo, netto calo, anche il clima di fiducia delle imprese manifatturiere, sempre in maggio scende a 86,2 punti dagli 89,1 registrati nel mese di aprile. Anche in questo caso l'Istat rileva che il nuovo calo fa toccare all'indice il valore più basso, in questo caso da agosto 2009. Il mercato del lavoro italiano ha acquisito molta flessibilità e questo ha portato più occupazione giovanile, e ora è giusto il dibattito sulla flessibilità buona e cattiva, che non vuole dire precarietà. Lo ha affermato oggi il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un intervento in un incontro al Quirinale. Crollo delle rapine in banca nel 2011, che sono scese del 23% a 1097, abbiamo proprio il dato preciso, sebbene l'Italia mantenga il primato nell'Unione Europea. E quanto si legge in un rapporto sulla sicurezza pubblicato oggi dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, secondo cui l'uso eccessivo dei contanti resta comunque nel nostro paese, lo diciamo da tempo, il maggior fattore di rischio. Con il calo delle rapine in banca, spiega l'ABI, i furti si spostano, saranno sicuramente contenti, verso farmacie, benzinai e tabaccherie. Un altro paio di notizie prima del nostro primo approfondimento di oggi. Sicuramente ci sono dei punti di contatto con le ricette indicate dal segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, per lo sviluppo. Lo ha detto il neopresidente di Confindustria, c'è stata la sua prima assemblea settimana scorsa, Giorgio Squinzi, a margine della presentazione del MadExpo, il salone dell'immobiliare che si terrà dalle 17 al 20 ottobre a Milano. Ma oggi Squinzi ha commentato anche un'altra vicenda, perché c'è un avvio di inchiesta da parte del Tribunale di Milano per turbativa d'asta sul primo appalto Expo, e quindi già cominciamo bene. Non conosco bene i dettagli della vicenda, certamente ci vuole vigilanza, ha detto Squinzi. L'importante è fare l'Expo al di là di tutto, ma stiamo partendo, e vorrei vedere, con il piede sbagliato. Allora vi do qualche dettaglio su questa indagine. Nell'ambito delle indagini per turbativa d'asta, con al centro la prima gara d'appalto assegnata per Expo 2015, ci sarebbero sospetti su un cartello di imprese che potrebbe averne influenzato la regolarità. L'inchiesta, nella quale sono indagati anche funzionari pubblici, è nata dal filone che ha portato in carcere l'ex assessore regionale lombardo Franco Nicoli Cristiani e l'imprenditore bergamasco Pierluca Locatelli. Proprio le dichiarazioni di quest'ultimo hanno fornito lo spunto investigativo. Ci fermiamo, possiamo mandare il blocco oppure partiamo con la Spagna, Mauro? Partiamo con la Spagna. Allora, naturalmente, visto che le notizie che sono arrivate dalla Spagna oggi hanno condizionato fortemente la giornata di borsa, sentiamo un po' che cosa è successo. Prima di tutto saluto il nostro ospite, Luca Veronese, collega del Sole 24 Ore, a lungo inviato in Spagna. In questi ultimi mesi ha seguito in maniera molto approfondita l'evoluzione della crisi spagnola e di conseguenza anche tutta quella europea. Oggi però in Italia, Luca, buongiorno, anzi buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Allora, la giornata era partita bene in Europa, gli indici si erano svegliati di buon umore, tutti in guadagno di oltre un punto percentuale, poi abbiamo appreso che, per la verità lo abbiamo appreso nei giorni scorsi, che Bankia, questa banca appunto che per la quale si è reso necessario un forte intervento dello Stato, avrebbe bisogno di denaro aggiuntivo per rafforzare i suoi requisiti di capitale. Prestiti pubblici già ricevuti 4,5 miliardi, adesso ne avrebbe bisogno di altri qualcosa, cifre spicciole, 19. E lo abbiamo però saputo appunto venerdì scorso. Ci vuoi spiegare, Luca, andiamo dritti al punto, che cosa è successo di nuovo nelle ultime ore al punto da far cambiare completamente direzione alla borsa? I titoli sono crollati, avevano avuto naturalmente la sospensione, poi l'autorità di borsa spagnola ha ritenuto che ci fossero le condizioni per riammettere la società appunto alle negoziazioni, -28%, la borsa di Madrid -2%, è in assoluto la peggiore in Europa e di conseguenza giù tutte le altre, e nuovo vistosissimo allargamento degli spread fra i bonus e i bund tedeschi. Qual è stata la novità della mattinata a fronte di un panorama che ci sembra non fosse poi così nuovo rispetto agli ultimi giorni? No, non c'erano novità evidenti, ma con i mercati così in tensione, così attenti a quanto succede in Europa e soprattutto a quanto succede in Spagna, che in questo momento è considerato un po' il paese debole, il prossimo ad essere attaccato dalla speculazione. Dicevo, quindi, con questa attenzione anche le voci che si rincorrono o solo le incertezze del governo, in questo caso del governo spagnolo di Madrid, possono alimentare le vendite come è successo oggi. E dicevi di 19 miliardi aggiuntivi che saranno necessari per salvare forse Bankia, ma forse non saranno sufficienti. Già gli analisti di mercato dicono che non basteranno, che il buco nei conti di questa fusione tra 7 casse di risparmio locali, che ha dato vita a questa specie di mostro con questo buco, e potrebbe essere l'esposizione quindi sull'immobiliare, gli asset a rischio che ha in portafoglio potrebbero essere di valore superiore, quindi 19 miliardi pubblici non ancora sufficienti. Inoltre si è diffusa la voce di una possibile richiesta di aiuto da parte del governo Rajoy all'Unione Europea per un intervento diretto sulle banche attraverso i fondi di salvataggio europei, una voce che poi è stata smentita in una conferenza del tutto inusuale dallo stesso Premier conservatore, ma come si sa i mercati in questi casi reagiscono alla prima delle notizie e poi fanno fatica a fare marcia indietro. E il prezzo di banche è crollato clamorosamente oggi, dopo che è stato riammesso, è crollato del 30% e fino a raggiungere un minimo di 1,10 euro, ma già gli analisti da Nomura a JP Morgan a Deutsche Bank pensano che non siano cifre definitive, anzi stimano il prezzo per azione intorno a 0,20-0,30 centesimi contro l'1,10 di oggi. Sono proprio un po', come dire, dei film che abbiamo già visto, quando parlavamo dei primi momenti della crisi greca, quando praticamente a fronte delle prime avvisaglie su quello che in Grecia stava accadendo, poi gli organismi internazionali hanno cominciato cominciato ad intervenire, a dire i sacrifici che state facendo non bastano, ad alzare la posta. Qua non vorrei appunto che si stesse cominciando lo stesso procedimento. Detto questo, a proposito di Mariano Rajoy, appunto il premier iberico, oggi ha parlato con la stampa. La Spagna deve continuare con le riforme e procedere con i tagli al deficit, altrimenti rischia di non avere più accesso ai mercati finanziari. Questo ha detto il primo ministro durante una conferenza stampa a Madrid. È necessario un messaggio chiaro e forte anche da parte dell'Unione Europea per eliminare tutti i dubbi sulla tenuta dell'euro, altrimenti, giustamente, implicitamente, Rajoy dice, si scatena una speculazione che poi si abbatte pesantemente su di noi, esattamente come è successo oggi. Sentiamo queste sue dichiarazioni. No va a haber ningún rescate de la banca española. Non ci sarà alcun salvataggio della banca spagnola. Credo che in questo momento ci siano molti dubbi riguardo la zona euro e questo fa sì che il premio di rischio di alcuni paesi sia molto elevato. Ed è esattamente quello che ci sta accadendo. Per questo sostengo che sarebbe estremamente importante una presa di posizione e il lancio di un chiaro messaggio sull'irreversibilità dell'euro per dissipare i dubbi sulla sua tenuta. Ritengo sia un fatto di estrema importanza. La decisione riguardo la nazionalizzazione di Bankia si inserisce nel processo che vede la ricapitalizzazione del settore bancario spagnolo. Gli obiettivi sono garantire i risparmi e i depositi dei clienti, sanare l'ente, recuperare la fiducia degli investitori, far tornare il credito, presupposto per invertire la situazione nel paese e creare occupazione, far ripartire il mercato immobiliare con un ritorno ai prezzi autentici di mercato. De sacar las viviendas al mercado y venderlas por el precio auténtico de mercado. Luca, tra l'altro stavamo leggendo anche, ma questo lo sapevamo appunto, ma magari raccontaci qualche dettaglio in più rispetto a quella che è la reale condizione degli altri istituti di credito spagnoli. Quanti sono vicini alla condizione di Bankia? Tra l'altro le dichiarazioni di Rajoy mi hanno anche almeno aiutato sulla pronuncia corretta di questo, di questi istituti di credito, che mi getta sempre un po' nella confusione. Sono stati lanciati diversi warning, diversi allarmi nelle scorse settimane, anche ad alto livello, dal Fondo Monetario Internazionale alla Banca Centrale Europea, sugli istituti di credito spagnoli. Si dice che siano 4 o 5 quelli a rischio, si sa che ce ne sono 3 già di dimensioni notevoli in mano allo Stato, ma è difficile anche guardando i bilanci di questi istituti capire dove sta il pericolo. Questo perché, per esempio, Bankia oggi ha fatto sapere che la sua controllante BFA ha diffuso notizie false, dei falsi in bilancio veri e propri nei mesi scorsi, indicando dei valori per gli immobili appunto o per i crediti nei confronti dell'immobiliare largamente superiore a quanto invece non sia la realtà. E quindi è questo che spaventa soprattutto i mercati, l'incertezza e la scarsa mi viene da dire un'altra similitudine con la condizione greca. Sì, anche se c'è da dire che la Spagna ha fatto tante cose buone e 2 errori grossi, diciamo, con Rajoy. Il primo sul deficit, appunto, di nuovo sull'incertezza, sulle cifre di risanamento, e adesso sulle banche. Questo è il grosso problema adesso della Spagna, e sotto accusa non è solo Rajoy ma anche la Banca Centrale Spagnola di Ordóñez, che non ha ben controllato e vigilato sui conti delle banche. A proposito di bilancio pubblico, questa nuova iniezione di liquidità in pancia a banche a 19 miliardi di euro che sono stati indicati appunto nelle ultime ore, che impatto avrebbero sul deficit pubblico spagnolo, visto che il governo si è impegnato a ridurlo in maniera molto consistente dall'8,9% al 5,3% di quest'anno, se non mi ricordo male le percentuali, Luca? Sì, le percentuali sono corrette, e Rajoy sta cercando di spiegare, ma non è ancora ben chiaro quale sia il progetto definitivo per il salvataggio e la nazionalizzazione di Bankia. Comunque Rajoy sta cercando di spiegare che non avrà impatto sul deficit, questo perché, stando a quanto è emerso e trapelato dall'entourage di Rajoy, il salvataggio cosiddetto verrebbe fatto attraverso un'iniezione di capitale non cash, ma attraverso titoli di Stato emessi o dal Tesoro spagnolo o dal FROB, il Fondo Straordinario di Salvataggio per le Banche. E certo è che in questo caso sicuramente non ci sarebbe un impatto sul deficit, ma al limite sul debito e poi sul deficit di rimando attraverso gli interessi. Il problema è che quanto possono valere come garanzie, come capitale i titoli di un paese come la Spagna, che oggi è in bilico, è considerata la periferia e già più volte ha dato adito a voci di salvataggio del debito sovrano e di incapacità di rispettare le proprie scadenze. Questo è un po' il dubbio. A proposito di titoli di Stato, poi Luca ti lascio, ci sono degli appuntamenti con il mercato questa settimana con la Spagna, anche un po' proprio per testare ulteriormente la capacità di stare sui mercati, una preoccupazione molto importante per Rajoy. Ci sono delle aste che non sono di grandissimo valore, ma sono sicuramente significative perché il mercato è volatile, è molto attento e in questo momento appunto ogni oscillazione, ogni informazione può procurare dei problemi. Certo, con lo spread così alto, con i rendimenti sopra il 6%, quindi vicini a quella soglia del 7% che fino a qualche mese fa consideravamo ormai quella del default di uno Stato, quindi con dei rendimenti sul mercato secondario di questo livello è difficile che riesca a spuntare degli interessi vantaggiosi. Prima di raccontarvi la giornata di borsa, vi racconto invece di un video che sta facendo il giro del mondo su YouTube naturalmente. A 12 anni una ragazzina canadese spiega i danni all'economia provocati dalle banche. Il suo nome è Victoria Grant. Il video della lezione che suo papà ha messo su YouTube è arrivato a 200.000 condivisioni. Forse adesso moltiplicheranno dopo averci ascoltato. Nell'analisi di Victoria, il fatto che le banche condizionino l'attività dei governi tanto che i contribuenti verrebbero truffati due volte. Sentiamola. Have you ever wondered why Canada is in debt? Have you ever wondered why the government forces Canadians to pay so many taxes? Vi siete mai chiesti perché il Canada è indebitato? Vi siete mai chiesti perché il governo impone ai canadesi così tante tasse? Vi siete mai chiesti perché i banchieri delle più grosse banche canadesi siano sempre più ricchi e il resto di noi no? Vi siete mai chiesti perché il nostro debito nazionale supera gli 800 miliardi di dollari e perché noi versiamo 160 milioni di dollari ogni giorno ai banchieri privati per i soli interessi sul debito nazionale? Sono 60 miliardi di dollari l'anno. Vi siete mai chiesti il perché di questi 60 miliardi di dollari? Ciò che ho scoperto è che le banche e il governo sono collusi nello schiavizzare finanziariamente i canadesi. Quando una banca vi fa un prestito sotto forma di finanziamento o mutuo, non vi dà del denaro reale, ma preme un tasto sul computer e produce del finto denaro. Di fatto non hanno quel denaro nei loro depositi. Attualmente le banche hanno 4 miliardi di dollari in riserva, ma hanno fatto prestiti per 1,5 trilioni di dollari. Ogni volta che una banca emette un prestito, viene creato del nuovo inesistente denaro. Praticamente tutto il denaro che esce da una banca esce sotto forma di prestito e il prestito è gravato dal debito. In conclusione, è dolorosamente ovvio anche per me, dodicenne canadese, che siamo stati derubati e defraudati dal sistema bancario e da un governo complice. Cosa dobbiamo fare per fermare questo crimine? Cosa dovremo fare per assicurarci che la prossima generazione sia salva da un'economia basata su falso denaro che rende schiavi delle banche? Non dubitate mai sul fatto che anche poche persone possono cambiare il mondo e questa è l'unica cosa che conta. Never doubt that a small group of people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Speriamo di non ritrovarcela in sella ad una grande banca d'affari internazionale fra qualche anno, ma chissà dove sarà Victoria Grant tra i 20 e i 25 anni, chissà quale percorso professionale deciderà di prendere dopo questo imprinting che i genitori le hanno dato, perché io credo che sia anche frutto del lavoro di suo padre, forse, insomma, se lei è in grado di raccontare con questa anche proprietà di linguaggio al mondo intero come funziona il rapporto tra banca e governi. Detto questo, stupisce anche le modalità, perché per chi non avesse visto il video, magari andatelo a vedere, c'è un piglio di Victoria molto, molto curioso, visto che qua in Italia noi facciamo un gran parlare di educazione finanziaria nella scuola. Adesso non c'è bisogno di arrivare ai livelli di Victoria Grant, ma si potrebbe partire con qualcosa di molto più modesto. Basta imparare ai ragazzi, insomma, che cos'è un conto corrente, che cos'è una pensione, che cos'è un prestito, che cos'è un mutuo. Ma abbiamo invece una distanza abissale tra quanto viene fatto qui da noi e quello che viene fatto qualche volta appunto nel resto del mondo, come nel caso del Canada, se Victoria si è appassionata così tanto ai temi della finanza. E adesso invece andiamo a vedere cosa è successo oggi in borsa. Guido Maurino, Radio Corriere, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, vediamo un po'. Milano, meno 0,7%, è partita stamattina con un rialzo di oltre un punto, nervosismo per tutta la mattinata. Sulle responsabilità di questo nervosismo che sono arrivate soprattutto dalla Spagna, abbiamo già speso molte parole nella prima parte della nostra trasmissione. Guido, andiamo direttamente a vedere i casi di Piazza Affari. Ovviamente, essendoci stato tutto questo fermento sulle banche spagnole, di conseguenza ne hanno risentito tutte le banche europee e di conseguenza anche quelle milanesi. Sì, è proprio così. Le cose che sono successe in Spagna con Bankia e la richiesta di ricapitalizzare con 19 miliardi recapitata al governo iberico, alla fine si sono fatte sentire un pochettino su tutto il settore bancario, e a Milano, dove il settore bancario è molto presente, si è fatto sentire maggiormente, visto che appunto Milano ha perso lo 0,74%, mentre le altre piazze, da Parigi a Francoforte, si sono mosse abbastanza attorno all'equilibrio. Fra i titoli, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, che ha ceduto il 4,75%, male anche il Banco Popolare, meno 3,74%, Mediolanum meno 3,62%, e via discorrendo anche le due big, Intesa San Paolo meno 1,65%, oggi Intesa San Paolo teneva l'assemblea. Sì. E Unicredit meno 1,42%. Su Fiat invece quali sono le ragioni di questa discesa del 2,21%? Prese di profitto oppure altre motivazioni, Guido? Un po' tutte e due le cose. Un po' ci sono le prese di profitto, perché come ricordavi tu, dallo scorso 17 maggio il titolo ha guadagnato il 14%. C'è anche da considerare che oggi Marchionne ha confermato che Fiat inizierà a comprare la quota di Veba, quindi del fondo sanitario del sindacato, in Chrysler. È un'operazione che di per sé può anche essere positiva per Fiat, perché Chrysler sta andando molto bene, ma alcuni analisti sottolineano anche come sia un dispendio di denaro in una fase profondamente incerta sui mercati, per cui c'è anche questo piccolo rischio per Fiat, che oggi ha ceduto il 2,21%. Allora andiamo a vedere altre situazioni. Oggi vorrei vedere un po' i segni, più qualche buona notizia. Azimut più 1,94, c'è qualche ragione, una rotazione di scelte tra gli investitori, Guido? Nessuna ragione in particolare, però osserviamo che da almeno 2 o 3 mesi Azimut continua a muoversi nella banda di oscillazione fra i 7 e gli 8 euro, oggi ha chiuso a 7,37 euro. In sostanza questo sembra un po' il prezzo che gli operatori riconoscono al titolo. Quando scende leggermente, poi nelle sedute successive ritorna a guadagnare, ma in una situazione di sostanziale equilibrio. Allora, adesso andiamo con diverse parole in inglese e poi però le traduciamo tutte per far comprendere che tipo di operazione c'è in programma, potrebbe esserci secondo indiscrezioni per Autogrill, che oggi è stato tra i migliori titoli della seduta a Piazza Affari, più 1,89%. Spin-off dell'ambito duty free. Guido, ti lascio tradurre. Allora, sostanzialmente si tratterebbe di separare e di quotare Tra l'altro fuori, ben al di fuori dei confini domestici, non certo in borsa in Italia, pare. Sì. Si parla di una quotazione all'estero, anche se appunto nulla è ancora deciso rispetto ai duty free, che sono poi sostanzialmente i negozi, quelli dell'aeroporto, che oggi rappresentano circa il 31% del fatturato di Autogrill. Sono un settore che gli analisti giudicano diverso per vari aspetti rispetto a quello degli autogrill classici, per cui per valorizzare meglio sia Autogrill che questa divisione duty free sembra che la famiglia Benetton stia pensando di separare i destini delle due attività. Su questa ipotesi, che appunto consentirebbe anche Autogrill di essere valorizzata meglio, il titolo ha guadagnato l'1,89%. Tra gli altri rialzi abbiamo Pirelli più 1,49, Tenaris più 1,43, Tots più 1,16, Salvatore Ferragamo, la moda da sempre grandi soddisfazioni, più un punto, Saipem più 0,98%, Fiat Industrial, quindi non tutta la galassia Fiat è andata nella stessa direzione, titoli Industrial più 0,8%, più 0,79%, Exor, quindi la holding di riferimento, più 0,72%, Luxottica più 0,62%, Mediaset più 0,54%, non ha avuto invece un maggio molto felice, oggi un rimbalzino, Guido. Sì, oggi un rimbalzino, considerando che il titolo rimane comunque sui minimi di sempre, però le quotazioni sembrano almeno avere individuato, come dire, una resistenza, quota 1,3 euro, una quota che per il momento non è stata ancora superata al ribasso, per cui insomma su questo titolo, su questa quota di 1,3 euro ottiene Mediaset, che oggi ha guadagnato lo 0,54%. Andiamo a vedere sempre nel settore editoriale invece per l'Espresso quali sono state oggi le quotazioni. Pessime, meno 10% fra i peggiori del listino minore. Sì, il gruppo continua a perdere terreno a Piazza Affari dopo la condanna a pagare 225 milioni di euro emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma per fatti che risalgono agli anni 90. Sono molti soldi, il gruppo ha già annunciato che farà ricorso, però diciamo che da giovedì, quando si è diffusa questa notizia, il titolo ha perso quasi il 20% in borsa. La cessione della quota di controllo di Snam e Rete Gas da parte di Eni, il conferimento del 25% alla Cassa Depositi e Prestiti sui titoli, mi sembra che abbia avuto tutto ciò un impatto relativo. Sì, ha avuto un impatto relativo, in parte era già comunque scontata. Questa mattina aveva avuto qualche piccolo impatto perché sia Eni che Snam stavano andando bene, ma poi alla chiusura, complice anche il rallentamento di tutto il listino milanese, Eni ha chiuso a meno 0,13% e Snam a meno 0,81%. In qualche modo erano tutte notizie che gli operatori già scontavano. Stavo curiosando sul listino minore sempre che tipo di prestazioni avessero potuto avere i titoli del calcio dopo il nuovo maremoto che si è appunto determinato oggi. Per la Roma più 6,38%, per i titoli della Juventus più 4,73%, mi sembra nessun impatto appunto sulle società quotate, per fortuna, almeno da questo punto di vista. Guido, mi sembra che non abbiamo più notizie ad aver movimentato la giornata. Abbiamo avuto una che è arrivata poco fa: i giudici della Corte d'Appello di Milano, nell'ambito del processo sulla tentata scalata di Antonveneta da parte della Popolare Italiana, appunto della vecchia Popolare Italiana, hanno revocato la confisca di quasi 40 milioni di euro a Unipol e hanno assolto, tra gli altri, il senatore del PDL Luigi Grillo. Guido, grazie per essere stato con noi. Buona serata. Buona serata a voi. Buona serata. Allora, adesso andiamo un attimo a cambiare radicalmente argomento, perché ci siamo occupati in questi giorni, naturalmente anche qualche volta è un po' triste dover affrontare appunto un approfondimento di questo tipo, ma dobbiamo farlo, della questione legata al sisma in Emilia Romagna. Allora, oggi c'è stata una fermata simbolica in tutti i luoghi di lavoro, effettuata anche a Modena e provincia, a partire dalle 15:30 per commemorare le vittime del sisma. Lo hanno deciso in ricordo delle 7 persone scomparse nel terremoto il 20 maggio le segreterie nazionali di CGIL e CISL UIL. Oggi ci sono stati anche i funerali di Nicola Cavicchi e Nevina Baldi, 2 delle 7 vittime del terremoto. Intanto la produzione industriale prova a reagire, molti si risollevano, ma sono necessari 2 interventi urgenti, secondo quanto ci ha dichiarato Roberto Bonora, direttore di Unindustria Ferrara. Lo sentiamo al microfono della nostra Anna Marino. Sono 2 le questioni fondamentali. Noi chiediamo che siano tempestivi, che siano rapidissime le decisioni del governo in ordine alla dimensione del contributo statale, di quanto verrà messo a disposizione dallo Stato per il ristoro dei danni, e la percentuale che potrà essere coperta rispetto a questo fatto, perché le aziende, per poter decidere se intervenire, se fare un mutuo in attesa che arrivino i contributi dello Stato, lo farà soltanto a fronte di certezze. Magari i soldi arrivano fra un anno, ma ho bisogno di sapere se mi coprono l'80% piuttosto che il 30%. È un appello al governo affinché emani questo decreto in tempi brevi. Esattamente, ma è assolutamente fondamentale anche per far ripartire le aziende che oggi potrebbero poterlo farlo con interventi anche non rilevantissimi. Ma in modo particolare le imprese hanno bisogno di sapere esattamente come riuscire ad avere indicazioni in ordine che cosa possono fare, se debbono farlo subito, se debbono sgomberare, che so, dei calcinacci. Quindi una sorta di guida operativa linea guida operativi certe. Lei ha notizie anche di aziende che stanno comunque ripartendo, magari perché avevano avuto dei danni lievi? Sì, moltissime sono sicuramente in questa condizione, alcune avevano soltanto bisogno di avere certezza sull'agibilità. Le aziende colpite nell'area dell'Alto Ferrarese sono state più o meno attorno a una settantina per quello che riguarda quelle industriali, fra le 25 e le 30 quelle che hanno subito danni diciamo abbastanza rilevanti e quelle che almeno nei primi giorni hanno fermato anche poi l'attività. Poi via via nei giorni successivi al terremoto varie aziende hanno ripreso parzialmente l'attività. Allora, naturalmente tutta la nostra vicinanza la continuiamo ad esprimere alle zone terremotate, ancora una volta il nostro paese questo dramma. E volevo chiudere invece con un sorriso, perché ci sono molti ascoltatori che giustamente evidenziano le mie scorrettezze grammaticali. Prima ho detto, invece di dire bisogna insegnare ai ragazzi l'educazione finanziaria nelle scuole, tema sul quale ci dibattiamo da tempo, forse sarebbe meglio insegnare un po' di corretta divulgazione da parte della conduttrice. Ho detto imparare, ragazzi, invece che insegnare. Me ne scuso, vedo che molti ascoltatori, molti professori sono in ascolto e molti si sono sollevati per questa cosa sulle loro sedie, un po' indispettiti. Vabbè, pazienza, abbiate pazienza, sto parlando dalle 9 di questa mattina, qualche volta sfugge qualcosa anche a me. Sono 18.08, ancora buonasera da Deborah Rosciani, siamo insieme per la seconda parte di Focus Economia. Oggi abbiamo avuto una giornata abbastanza nervosa per i mercati, per le motivazioni che vi abbiamo indicato nella prima parte della nostra trasmissione. Il catalizzatore oggi dell'attenzione degli investitori è stato ancora una volta il fronte spagnolo. Banchi ha già nazionalizzato, ha già ricevuto aiuti di Stato per 4,5 miliardi, ha bisogno di altri 19 miliardi per poter fronteggiare i suoi impegni. E questo oggi, peraltro notizia che era già stata diffusa venerdì scorso, oggi però ha gettato nella incertezza tutti gli operatori di mercato. La piazza spagnola ha perso il 2%, le altre piazze finanziarie che stamattina erano partite molto bene hanno preferito nel pomeriggio richiamare l'attenzione generale, volgendo invece la loro giornata, facendo volgere la loro giornata in negativo. Milano, ancora una volta, per le numerose banche che compongono il listino, è stata la peggior piazza d'Europa, perché potete ben capire che tutto il comparto bancario è stato bersagliato dalle vendite e Milano sul finale ha perso lo 0,74%. Tra l'altro non abbiamo dato anche gli altri due parametri fondamentali delle giornate di borsa, delle giornate finanziarie. L'euro sul dollaro, che aveva recuperato 1,26, è scivolato di nuovo ben al di sotto di questa soglia. In questo momento il cross tra le due valute è a 1,25,39, siamo dunque sui minimi da due anni. Lo spread fra BTP e Bund è di nuovo, settimana scorsa era riuscito a ritornare anche se solo per una giornata sotto 400, oggi è stato sempre sopra i 430, e quindi anche da qui appunto vediamo qual è la tensione che ancora sta caratterizzando il comportamento degli investitori e soprattutto colpisce i paesi cosiddetti periferici. Noi però adesso lasciamo per un momento la finanza per andare alle questioni economiche di casa nostra e andiamo a parlare appunto di spesa pubblica e delle novità sulla cosiddetta spending review. Questa sarà un'altra parola che sarà sicuramente tra le più gettonate nei prossimi giorni, il cronoprogramma, visto che peraltro siamo anche in pieno clima ciclistico. Oggi cos'è successo? Che il commissario per la spending review, cioè per l'individuazione di tutti quei tagli che potrebbero essere effettuati alla spesa pubblica per risparmiare, quindi evitarci quantomeno nel prossimo autunno l'aumento di altri 2 punti di IVA, Enrico Bondi ha presentato questo cronoprogramma e quindi tutta la cronologia degli interventi che si potrebbero fare per cominciare appunto a risparmiare, il cronoprogramma degli interventi. Questa presentazione è stata fatta al Comitato Interministeriale per la revisione della spesa, che si è riunito stamattina a Palazzo Chigi. Secondo quanto ha dichiarato ieri il ministro Giarda, la spesa pubblica potenzialmente aggredibile nel breve periodo ammonterebbe a 100 miliardi di euro, mentre è di 300 miliardi di euro quella spesa pubblica aggredibile che richiederebbe però un intervento di più lungo periodo. Allora, chi si sta occupando per il Sole di queste notizie, di questa vicenda? Marco Rogari, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Caro Marco, allora 4,2 miliardi i risparmi subito previsti con un pacchetto di interventi da poter mettere in atto con una serie di strumenti già immediatamente operativi in giugno. Allora, già non ti dico quanti ascoltatori ci stanno dicendo, vabbè, ma insomma, se la spesa aggredibile è di 100 miliardi, solo 4,2 miliardi ha tirato fuori Giarda dal cilindro. Ti chiedo un commento, ovviamente meno sull'onda emotiva, più concreta, un commento appunto più concreto. È una buona cifra a tuo avviso, e da che cosa maturerebbe? È la cifra che serve per rinviare l'aumento autunnale dell'IVA. Quindi l'importante è già che ci sia almeno questa, ecco. Assolutamente, sì. E poi però si è vista su base annuale, perché noi dobbiamo considerare che questo intervento scatterebbe da luglio e quindi avrebbe valenza soltanto su 6 mesi dell'anno. Su base annuale si tratterebbe di circa 7 miliardi. E naturalmente questa costituisce soltanto la prima fase del piano di spending review, cioè di revisione della spesa, interventi per ridurre e rimodulare le uscite di tutta la pubblica amministrazione senza ricorrere ai tagli selettivi, perché ci sarà una seconda fase il prossimo anno, e una seconda fase che sarà molto molto più cospicua di quella che è prevista per i mesi che arriveranno adesso, quelli a venire. Marco, entro il mese di giugno saranno varati tutti gli strumenti operativi per ottenere appunto queste riduzioni di spesa programmate, almeno 4 miliardi e 200 milioni di euro. Che tipo di strumenti ha individuato Giarda? Bondi? Bondi e Giardi. O questo tandem, perché, ecco, esatto. Sì, Bondi e Giardi, esattamente, perché Bondi è incaricato di, come posso dire, preparare un piano soprattutto incentrato su gli acquisti di beni e servizi, le famose forniture, cioè dalle matite alle tacche per intenderci. Un piano che stamattina è stato accennato nel cronoprogramma che il commissario straordinario ha presentato al comitato interministeriale presieduto da Monti e di cui fa parte anche Giarda. Quindi si interverrà soprattutto su due fronti in questo caso: contenere i costi delle forniture, quindi di tutte le voci di spesa, come dicevo, dalle matite banalmente alle scrivanie, alle divise dei militari, contenere i costi e soprattutto fissare però dei fabbisogni di spesa, perché se poi noi riduciamo soltanto il prezzo di una voce senza rivedere a monte la spesa necessaria, non otterremo alcun risparmio. Quindi si incanala su due versanti e farà leva sicuramente sul rafforzamento dei poteri della Consip, che è la struttura oggi preposta a gestire in maniera, diciamo così, centralizzata solo una parte delle voci che rientrano nel comparto, nel settore delle forniture, cioè soltanto il 29% della spesa per forniture adesso è gestita da Consip, quindi si punterà ad alzare questa asticella. Un'altra notizia molto interessante, anche perché diciamo questo monitoraggio sulle inefficienze e sugli sprechi che il governo ha attivato qualche settimana fa è stata forse l'iniziativa più popolare, che è andata dritta alla pancia di tutti gli italiani. E allora, da questo sito di consultazione praticamente che il governo ha messo in campo sono pervenute 130.000 segnalazioni da parte di cittadini e associazioni proprio al governo per segnalare inefficienze e sprechi e proporre soluzioni per razionalizzare la spesa pubblica. Sai che non mi era chiaro, Marco, che chiudesse in così poco tempo questa consultazione? Domani mi pare che sia domani, la giornata domani. Ultima. No, questo era previsto fin dalla fine di aprile, quando fu annunciato il piano di spending review. È un'iniziativa che, come sappiamo, ha destato anche qualche polemiche sulla questione della privacy. Sì. Esattamente, il garante della privacy di Pizzetti non era poi così tanto convinto. Detto questo, di queste 130.000 segnalazioni, che voglio dire vanno dalle cose più disparate, cioè dalla segnalazione di marciapiedi fatti non, diciamo, proprio a norma o con particolare attenzione, fino a monumenti giudicati superflui, ce ne sono state alcune però che erano pertinenti soprattutto sul versante locale della gestione degli enti locali, perché anche gli enti e le strutture di comuni, province sono nel mirino del governo e probabilmente finiranno come i cosiddetti enti inutili, come le spese dei singoli ministeri in quella che sarà la seconda fase di cui parlavo prima, alcune di queste segnalazioni sono state prese in considerazione e sono state oggetto di analisi da parte di Bondi e Giarda. Benissimo, Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi. Adesso lasciamo sedere il nostro secondo ospite, lo lasciamo cuffiare perché, come promesso, dobbiamo parlare anche della questione Snam Rete Gas, Eni, Cassa Depositi e Prestiti. Intanto però salutiamo Marco Rogari, a presto Marco, buona giornata, buona serata, anzi buon lavoro. Buonasera ad Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Allora, oggi giornata nervosa anche al quotidiano per tutte le cose che dobbiamo mettere in pista, tra quelle che abbiamo raccontato e quelle che probabilmente matureranno nelle prossime ore. Giornata molto nervosa in borsa, l'abbiamo già raccontata ampiamente nella prima parte della trasmissione, questi venti sinistri che continuano a spirare dalla Spagna non ci piacciono per niente. Abbiamo raccontato le novità sul monitoraggio della spesa pubblica, i risparmi che Bondi vuole portare a casa per evitarci l'aumento di altri 2 punti di IVA a partire da settembre. E però c'è un'altra notizia che magari oggi non ha movimentato la salute di borsa, però probabilmente potrebbe movimentare un po' i conti pubblici prossimamente. Vedremo in che modalità si concretizzerà. Caro Alessandro, dobbiamo spiegare ai comuni mortali, quindi ce la devi raccontare con la tua grande capacità divulgativa come se la dovessi raccontare alla mia mamma, che cosa vuol dire che Snam Rete Gas passa dalle mani di Eni a quello della Cassa Depositi e Prestiti. Era un'operazione prevista dal decreto, dalla misura Cresci Italia che il governo ha varato nei mesi appunto invernali. Eni ha tempo fino a settembre 2013, quindi un anno e mezzo, per separare dalle sue attività Snam Rete Gas, e però insomma quella che doveva essere una misura di liberalizzazione non comprendiamo come sia concretamente tale, visto che praticamente il nuovo controllo lo assume un altro organo dello Stato, che è la Cassa Depositi e Prestiti. Spiegaci un po' questo puzzle. Allora, quello che apparentemente, e che come lo stesso presidente di Confindustria fra l'altro ha messo in evidenza, che può sembrare come uno scambio di pacchetti azionari, perché diciamo che sulla carta sembra è tale, così. Appunto, bisogna dare sostanza a questo progetto che ha messo in piedi il governo e che si muove verso 2 direzioni, questo per i nostri ascoltatori: uno che riguarda il mercato del gas, degli operatori che trasportano nelle nostre abitazioni il gas, perché bene ricordare che la rete di Snam è una rete dorsale, cioè trasporta il gas dalle dai grandi fornitori dell'Italia fino agli operatori che lo portano nell'ultimo cosiddetto ultimo miglio, fino alle nostre abitazioni. Quindi il primo deve servire ad aumentare la concorrenza tra gli operatori che chiedono gas a Snam. Il secondo dovrebbe essere, attraverso un maggiore accesso di operatori alla rete di Snam, un guadagno per gli utenti. E qui arriviamo nelle case. Per quale motivo? Perché il governo parte da questo presupposto. Dice: attualmente la Snam è inserita all'interno dell'Eni. Può l'Eni garantire i progetti di sviluppo della Snam che si muovono in un, diciamo così, in un ambito di trasporto del gas, mentre l'Eni dovrebbe fare esplorazione, certo, e produzione di petrolio e non gas? Non è esattamente il suo core business. Esatto, quindi magari... e non solo, la stessa Unione Europea aveva più volte detto, fra l'altro c'è anche una direttiva in questo senso, in cui si diceva sostanzialmente che i grandi monopolisti, gli ex monopolisti, non potevano tenere le reti del gas a meno di non creare delle condizioni societarie tali da garantire la concorrenza. L'Italia, al contrario di altri paesi, sia una scelta che è stata fatta per pur libera, ha deciso di toglierla direttamente perché dice: non, probabilmente l'Eni è meglio che si occupi di altre cose che di occuparsi del trasporto del gas. Allora, qual è la logica? A questo punto, con un azionista forte come la CDP, che vede nella rete di trasporto non soltanto un settore strategico per il paese, ovvero il trasporto del gas e la sicurezza degli approvvigionamenti, ma ritiene che attraverso la propria guida svincolata da interessi societari come quella dell'Eni di poter garantire una maggiore apertura ad altri concorrenti. E quando parlo di concorrenti parlo ad esempio dell'Italgas o della EM o della Edison, che porta poi il gas nelle abitazioni, garantire prezzi più bassi. E teniamo presente che già da quando c'è stata la societarizzazione della Snam, cioè che si è fatto un consiglio che garantisce l'indipendenza dall'Eni, beh, già da là sono scesi del 30% i prezzi del gas, quindi i risultati, il 30% agli operatori, io sto parlando, certo, poi tocca agli operatori, esatto, travasare i risparmi di prezzo sui consumatori, che non si capisce mai, perché quella è l'operazione che avviene sempre con grande sfida. Difficoltà, quindi si muove su questi due fronti, ma in realtà c'è un progetto più ambizioso che ha mosso questa operazione, che è quella di trasformare o di far sì che la Snam diventi, di qui ai prossimi anni, un po' il grande operatore europeo delle reti di trasporto del gas. Come? Acquisendo concorrenti. Teniamo presente che di qui ai prossimi 8-10 anni, si calcola che ci saranno investimenti per 70 miliardi di euro da parte dei grandi operatori sulle reti del gas in Europa. Perché questo? Perché da una visione, se si guarda la mappa europea, si vede che le reti nazionali di trasporto del gas non sono interconnesse. Questo qual è il danno che provoca questa mancata interconnessione? Che se c'è una crisi in Russia, come già avvenuto nell'ex Unione Sovietica, e il gas non arriva e ce lo riducono, noi non abbiamo altri canali per portare il gas veri. Allora la logica, il disegno qual è? Se noi facciamo diventare Snam con investimenti molto pesanti, con acquisizioni e con operazioni societarie in Europa, l'operatore che fa da raccordo costruendo nuove linee che mettono insieme i vari gasdotti, domani potremo, se viene meno gas da un rubinetto, lo faremo venire da un altro rubinetto europeo. Cioè se la Russia non ce lo dà, potremo farlo venire dalla Germania o dalla Norvegia o dalla Svezia, a seconda di dove, della connessione che c'è. Insomma, allora, il disegno in prospettiva è molto importante, costa, strategicamente. Sì, strategicamente parlando, ha una sua logica. C'era un'alternativa. L'alternativa poteva essere quella di creare un nuovo operatore italiano grande, unendo la rete del gas e quella di trasporto della corrente, che è eterna. Il governo ha ritenuto che questa non che è non una strada, essere la strada, almeno per ora, ma io ve lo dico, non escluderei che in un secondo momento si possa arrivare anche a questo. C'è un problema di reti e c'è un problema di soldi. Unendo gli operatori forse si può sbloccare uno e l'altro. Andiamo per un attimo alla situazione odierna. Allora, Eni ha il 52% di Snam Rete Gas, e questo 52% verrà spezzettato, perché il 25% va alla Cassa Depositi e Prestiti, il resto dovrebbe andare sul mercato secondo a investitori istituzionali, oppure sul mercato proprio borsa italiana. Mercato borsa italiana, verrà, in borsa. Ci saranno sicuramente. Sicuramente questo spetterà. Perché lei. Questa è una società che piace anche ai piccoli investitori. Ma assolutamente, perché? Perché è un settore regolato, quindi dove c'è anche una certa prevedibilità di dividendi incassi, assicurati a vita, perché dividendi gli azionisti sono sempre ingombranti. Sono sempre molto alti, quindi sicuramente quello va, ma c'è una particolarità in quel decreto che va messa in evidenza. E cioè, in questa operazione, nella nuova Snam, chiamiamola così, nel momento che si cedono le quote, non ci sarà un tetto al possesso azionario. Si pensava di fare un tetto del 5%. Evitare che cosa vuol dire questo? Cioè, tradotto... se lo Stato è il 29, per dirti, o il 26%, quello che è la quota, poteva impedire ad altri operatori di superare il 5. In questo modo si evitava che si creassero dei padroni alternativi allo Stato. Delle voci, insomma, importanti. Il ragionamento è stato questo: noi consolidiamo, facciamo un bel nucleo pubblico di controllo della Snam attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, e non mettiamo il tetto al possesso delle azioni. Questo che cosa farà, succederà? Significa che ci sarà una grande liquidità sul titolo e qualunque operatore potrà comprare più del 5% se vuole. Certamente teniamo presente che c'è una golden share, quindi il controllo e la sicurezza della proprietà pubblica non è messa in discussione, perché c'è sempre il diritto dello Stato di dire la sua e di bloccare decisioni che non sono ritenute o che sono ritenute pericolose per l'interesse del paese. Ma allo stesso tempo c'è una grande liquidità sul titolo, perché si potrà comprare e vendere le azioni di Snam senza aver paura di essere bloccati dal tetto del 5%. Allora, abbiamo detto che questa liberalizzazione è contenuta nel pacchetto Crescitalia che il governo ha varato appunto lo scorso autunno, però anche se non era contenuta questa misura nel decreto Salva Italia precedente, anche questa misura serve a mettere i conti dello Stato in sicurezza. Che beneficio ha lo Stato da un'operazione? Allora, per quanto riguarda, diciamo così, è un beneficio di lungo periodo, non possiamo assolutamente quantificarlo adesso e non possiamo nemmeno dire in questo momento che questa misura comporti dei vantaggi immediati per le finanze pubbliche. Nessuno. È un'operazione che a livello societario è a costo zero, quindi non ha un impatto, si sposta semplicemente la proprietà delle azioni, però allo stesso tempo non ha nemmeno un impatto positivo su quello che è il nostro debito, il nostro deficit o altre entrate aggiuntive. Qui non ci sono entrate aggiuntive che possono arrivare per lo Stato, ma semmai in un disegno di medio-lungo periodo ci sono risparmi aggiuntivi per le famiglie e per gli operatori che operano nel gas. Ci sono degli ascoltatori che dice: secondo me questa operazione la spiegate, tentate di farlo, ma non l'avete capita molto bene, perché il gas al consumo è sempre aumentato. E va no, bene. Infatti ho detto che le diminuzioni sono state a livello di operatori. Snam non vende il gas direttamente alle famiglie, lo vende agli operatori. Il problema italiano, e questo i nostri ascoltatori anzi hanno ragione da vendere, è che purtroppo questi benefici delle liberalizzazioni si sono visti ancora molto poco, e allora le famiglie hanno giustamente di che recriminare, di dire: ma vogliamo controllare che anche gli operatori ci abbassino il gas a noi? Ora devo dire, è un po' ingiusto, diciamo così, dire sempre che le cose a noi aumentano, anche perché oggettivamente la liberalizzazione che c'è stata ad esempio nel trasporto, un po' anche dell'energia all'ultimo miglio a casa, io penso ormai è possibile decidere di fare il contratto con società concorrenti, non solo più con l'Enel. Beh, dei risparmi là ci sono stati, però oggettivamente, e questo bisogna dirlo, quei guadagni che hanno avuto gli operatori che sono entrati nei nuovi business, non li hanno minimamente girati alle famiglie italiane. Ecco, e con questa consapevolezza, della quale parliamo tanto spesso, non solo a Focus Economia, ma anche a Salvadanaio, chiudiamo questa trasmissione. Alessandro, grazie. Grazie a in voi. Maniera rocambolesca di essere arrivato in tempo da un a piano Focus all'altro. Economia. Infatti, fra un po' ci smaterializzeremo. Saremo in grado anche di fare questa operazione. Intanto Focus Economia termina qui. Grazie, grazie a Barbara a Bianchi, ad Alessandro Praterotti e a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione. Questo tandem di assistenti, anzi di collaboratori alla regia, tra Roberto Scaltritti e Fabio Cantadori, adesso lo chiaramente seguiamo sempre con grande attenzione. Grazie a tutti per essere stati con noi. Domani torna Sebastiano Barisoni. Buona giornata a tutti.